Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio e bentornato subito al ministro degli esteri Fabio Tavelli. Grazie Gigi, buongiorno a tutti. Pallone d'oro e riforma dei calendari sono gli argomenti obbligati dell'agenda di oggi. Mettiti comodo perché secondo me ce n'è per un po'. Intanto, scorrendo l'elenco intero dei votanti, insomma, un po' di curiosità saltano fuori e anche di documentazione. Per esempio, avendo votato capitani, allenatori e giornalisti, cominciamo a leggere i voti degli italiani. Buffon, come capitano dell'Italia, ha votato nell'ordine primo Iniesta, secondo Snyder e terzo Casillas. Vado avanti, facciamo le isole Solomon, che mi sembra divertente, che ha votato primo Schweinsteiger, secondo David Villa e terzo Drogba. Questo tanto già per dare un'idea. Fabio Capello, come CT dell'Inghilterra, ha votato nell'ordine primo Iniesta, secondo Xavi e terzo Maicon. Il CT della Francia, Laurent Blanc, ha votato la scheda che avrei votato io, esattamente in quest'ordine: primo Xavi, secondo Snyder e terzo Iniesta. Prandelli, come CT dell'Italia, ha votato primo Snyder, secondo Iniesta e terzo Messi. Zaccheroni, come CT del Giappone, ha votato primo Messi, eccole qua uno, primo Messi, secondo Snyder e terzo Robben. Vado avanti ancora, arriviamo, credo, vabbè, poi ci sono voti ameni, ma su questo poi ci sarà tempo. Il voto del giurato italiano, che è Paolo Condò della Gazzetta dello Sport: primo Snyder, secondo Iniesta e terzo Thomas Müller, il giovane tedesco del Bayern. Poi, ripeto, ci sarà tempo per altri dettagli. Partirei da un dato, Fabio, che è questo, e lo dico senza una particolare fierezza di categoria che non mi è mai appartenuta, però è una rivalutazione dei giornalisti questo voto di oggi. Perché? Perché fino a quando il pallone d'oro è stato votato soltanto da una giuria di giornalisti, si sapeva che c'erano dei parametri abbastanza precisi, e cioè l'anno del mondiale piuttosto che la Champions League, insomma, parametri di riferimento attendibili e, con qualche esito insomma discutibile nell'arco di 50 e passa anni, ma insomma grosso modo ci stava. Quest'anno, se il pallone, perché dico rivalutazione? Perché, dato che c'è stata una discreta sollevazione nei confronti del premio assegnato a Messi, bene, se il pallone d'oro fosse stato assegnato, come accadeva prima, unicamente col voto della giuria dei giornalisti di tutto il mondo, il vincitore non sarebbe stato Messi, bensì Wesley Snyder. Avrebbe vinto Snyder, secondo sarebbe stato Iniesta, terzo Xavi e soltanto quarto Messi. E allora ogni tanto è anche giusto dirlo per consolarci, tutto sommato. Ma sai, io credo che rispetto al capitano delle Faroe o delle Isole Salomon, qualsiasi cronista di un posto un po' alfabetizzato a potenza calcistico abbia un'opinione forse superiore. Detto questo, sì, mi fa abbastanza ridere che qualcuno abbia indicato Schweinsteiger, ottimo giocatore per la verità, però è impensabile da premiare come pallone d'oro. Io onestamente, però, secondo me non possiamo fare alcun paragone col passato, nel senso che questo è un premio veramente diverso, perché è un premio che, sì, che sì, fonde le due cose, e quindi siamo davvero all'anno zero. I parametri ai quali tu facevi riferimento erano parametri ormai consolidati, erano consuetudini, cioè leggi non scritte, perché comunque non stava scritto da nessuna parte, però già negli anni pari, cioè negli anni dei mondiali, già il fatto di dover o voler premiare un vincitore di un mondiale piuttosto che un vincitore della Champions League poneva comunque di fronte a un piccolo dilemma. Già il fatto che il pallone d'oro prima del 2010 fosse sostanzialmente assegnato in base ai primi sei mesi, cioè in base al momento dell'assegnazione della Champions League, in assenza di europei o di mondiali, era già un'altra situazione abbastanza curiosa e particolare. La mia opinione è che Messi quest'anno non è stato il migliore al mondo, fermo restando che parliamo di un premio individuale in uno sport collettivo, ma in una competizione nella quale si parla di calcio ed è un premio individuale e Leo Messi è tra i partecipanti, se Leo Messi vince, secondo me non è uno scandalo. Cioè, se stiamo parlando di calcio e vince Messi, per me non è uno scandalo. Poi si può discutere fino all'infinito e probabilmente lo possiamo fare, però ecco, parlare di scandalo, di vergogna o così, ma secondo me è veramente eccessivo. D'accordo al 110%, anche perché ti butto lì un altro numero: nell'anno solare 2010 Leo Messi ha segnato 60 gol in 64 partite. Ora, no, ora l'anno che diedero il pallone d'oro a Sammer, per esempio, vabbè, qualche discussione c'era, ci poteva stare. Io non ricordo chi erano i le alternative di allora, evidentemente, però insomma, capisco che un libero tedesco, che non era Beckenbauer tra l'altro, no? Non aveva i piedi di Beckenbauer, potesse essere oggetto di discussioni. Ma considerare una bestemmia il fatto che Leo Messi vinca il pallone d'oro in una appunto disciplina, come ricordavi tu, in cui è oggettivamente il più bravo di tutti e il più spettacolare e divertente di tutti, non solo non è una bestemmia, ma come dici, hai detto bene, è l'anno zero del pallone d'oro ed è ragionevole pensare che se va avanti così, se lo giocano lui e Cristiano Ronaldo per i prossimi 10 anni, sì, occhio. Possono vincere veramente i prossimi 10 palloni d'oro se li giocheranno loro due, speriamo di no, perché magari sarebbe bello se ci fosse anche qualcun altro, però ragionevolmente sì. E poi davvero, se ecco, questi sono i tra virgolette rischi quando si allarga troppo, e sì, qui non a caso Blatter era lì da quelle parti, perché quando allarghi di molto la base poi non controlli più, e quindi arrivano anche i voti a Schweinsteiger o i voti a Drogba o i voti a giocatori, per carità, molto forti, ma che non possono essere considerati il migliore di tutti, è evidente. Certo. Io dai primi messaggi che arrivano ne trovo tanti che sono d'accordo invece con questa votazione, perché non so, Jacopo, Vicenza, Gianni Cussini, un altro ancora di cui non riesco a decifrare la firma, ma insomma sono assolutamente d'accordo sul fatto che il miglior calciatore del mondo sia Messi. Sono semplicemente cambiati i parametri. Da qui quest'anno l'idea che avrebbe vinto Xavi piuttosto che Iniesta, che Sneijder avrebbe meritato molto di più e comunque di finire sul podio, eccetera eccetera. Andiamo avanti. La sensazione, mi dicevi prima quando ci siamo sentiti rapidamente per concordare gli argomenti di massima, è che insomma, questo premio non faccia un favore a Guardiola comunque. Secondo me no, perché anche qui l'ufficio facce mi fa pensare che ieri, quando Guardiola ha visto il nome Messi, non lo confesserà mai secondo me, però un minimo, un filo di imbarazzo ce l'ha avuto. Ieri la Spagna è stata la grande sconfitta, perché gli spagnoli si aspettavano di fare il pieno, di prendere il premio di miglior allenatore con Del Bosque e prendere il premio di miglior giocatore con Iniesta, e avevano anche la carta Xavi eventualmente, anche se era quello meno accreditato, c'era anche la carta Guardiola, ma insomma erano la maggioranza, e alla fine hanno vinto i non spagnoli, anche se calcisticamente Messi lo dobbiamo considerare spagnolo, perché di fatto gioca in Spagna quando aveva 12 anni, però sì, è argentino ed è un nazionale argentino. Detto questo, secondo me potrebbe diventare complesso adesso la gestione del personaggio Messi all'interno di una squadra come il Barcellona, che ha sì Messi come punto di riferimento, ma ha soprattutto un'organizzazione complessiva. Sinceramente, guardando e riguardando, ieri li avrò visti almeno 700 volte queste immagini, quando Guardiola estrae il nome, al di là che poi lo estrae storto e quindi già si poteva vedere prima che lo vedesse lui o lo leggesse, sì, ma quando c'era la soggettiva, l'inquadratura sui tre, era evidente che Xavi non ci credeva e Iniesta invece ci è rimasto male, e tutto questo fa parte delle cose umane. Io credo che quando Leo Messi si è alzato, almeno uno sguardo, un buffetto, un cenno verso Iniesta gliel'avrebbe potuto fare, sì, sinceramente. Poi stamattina ho visto delle foto su Marca con il capochino di Iniesta e Xavi che abbandonano la sala mentre Messi è lì a rilasciare interviste. Ecco, credo che Guardiola dovrà lavorare molto bene dal punto di vista della diplomazia adesso per far, non dico accettare, perché insomma si accettano anche cose peggiori, però diciamo la verità, se questo è il film, Iniesta e Xavi e il pallone d'oro non lo vinceranno mai più, vinceranno mai, e dovranno farsene una ragione. E nemmeno Sneijder, e comunque sì, almeno un cenno ai due, io avrei fatto il giro della sala sinceramente per andare a Xavi e Iniesta a abbracciarli prima di salire sul palco, ma insomma, però mi dicono voci di buona fonte catalana che Messi, che fa fantastico coi piedi e nell'istinto calcistico, in realtà abbia fatto un po' fatica a prendere il diploma di quinta elementare, mi dicono, poi sono tutte cose da accertare, ma questa, dato che è una robina fresca di ieri sera, insomma, poi tutto questo potrebbe anche spiegare questa cosa. Un'ultima ora velocissima, perché sto leggendo proprio dall'ultima ora di Sky che Amauris è fratturato il setto nasale e quindi salterà la partita con il Catania, e l'intervallo, il primo di oggi, per strade e autostrade. Trovo giusto, Fabio, invece, che la votazione per il miglior allenatore dell'anno abbia premiato Mourinho, perché credo che i trofei che Mourinho ha messo insieme della scorsa primavera, tutto sommato superino come coefficiente di difficoltà quello che ha ottenuto Del Bosque al Mondiale. È stato tra l'altro un arrivo al photo finish, e cosa potrebbe esserci di vero nel fatto che era praticamente scontata la vittoria, seppure sul filo di lana, e Del Bosque? Mourinho infatti è arrivato in ritardo perché, pensando di perdere, non ci voleva andare, e poi all'ultimo momento è arrivata la soffiata. No, non lo so, però io, tornando facendo un passo indietro, abbiamo detto di Messi, forse poco, che ha avuto poca non è stato diplomatico. Guardate la differenza con Mourinho, appena si è alzato lui sapeva di essere stato già premiato, perché lo sapevamo tutti, perché comunque era già stata diffusa a livello di note stampa la classifica, quindi non poteva non saperlo. Nel momento in cui lui ha ricevuto la chiamata, si è alzato ed è andato ad abbracciare i suoi giocatori dell'Inter e quelli del Real Madrid che erano lì vicini. Cioè, differenza assoluta, ma oltre che anagrafica anche culturale e comportamentale da questo punto di vista. Cioè, nel comportamento di Messi c'è tutto il ragazzo calciatore, nel comportamento di Mourinho c'è tutto il uomo calcolatore, certamente commosso, certamente colpito in positivo, sentimentalmente molto legato all'Inter, poi l'ho detto anche ai nostri microfoni, però anche molto molto scaltro e bravo nel riconoscere ai giocatori il premio per essere arrivato fin lì. Credo che il premio a Mourinho sia giusto, sono d'accordo con te, e credo anche che faccia parte del discorso che facevamo prima. Cioè, nell'anno del Mondiale il miglior allenatore l'ha sempre preso il riconoscimento della FIFA, sì, che ovviamente è la federazione internazionale che organizza il Mondiale. Allargando così era abbastanza normale che ci potesse essere una situazione diversa. Lo spessore, la capacità di prendere la scena di José Mourinho, secondo me ha fatto il resto, quindi ci sta che abbia vinto lui con merito. Secondo capitolo di oggi all'ordine del giorno è un'anticipazione di Repubblica a firma Fulvio Bianchi, che arriva da Nyon, cioè dalla sede dell'UEFA, che riguarda, da un lato, ma di questo parleremo poi con calma domani, da un lato di una situazione economica complessiva che pare peggiorata, se parliamo di fair play finanziario, rispetto al 2008. E quindi, visto che nel pomeriggio verranno pubblicati questi numeri e queste cifre, ci sarà un discorso di Platini in proposito, c'è da aspettarsi qualche giro di vite, o comunque qualche richiamo all'ordine, o qualche dilazione, chi può dirlo? Questo lo sentiremo dopo. L'anticipazione più interessante si collega all'argomento della puntata nostra dello scorso martedì, e cioè una rivoluzione in piena regola di calendari. Noi ci eravamo spinti, Fabio ricorderai, anzi tu ti eri spinto, quella proposta era tua, no? a togliere nel corso dell'anno gli appuntamenti delle nazionali e a concentrarle tutte a fine stagione nel mese di giugno. Platini andrebbe molto oltre secondo questa anticipazione di Repubblica, e ripeto, domani poi ne sapremo di più, perché vorrebbe addirittura che tutti i campionati iniziassero in febbraio e finissero in novembre. E cioè, rivoluzione copernicana, in buona sostanza, non si gioca più d'inverno, ma si gioca d'estate, a pallone, e si giocano d'estate i vari campionati. Prima impressione, reazione tua. Guarda, la prima impressione è che non passerà mai una riforma del genere, ma da un punto di vista complessivo a me affascina molto. Io trovo che si dovrebbe ragionare come fanno le leghe americane, cioè di cercare di riempirla la stagione, non di lasciare dei buchi. E quindi è chiaro che è più bello, è più gradevole andare allo stadio, vedere le partite d'estate, però è anche evidente che ci possono essere alcuni problemi anche dal punto di vista climatico. Insomma, in Italia, in Spagna, in Grecia, in Turchia fa molto caldo d'estate. C'è anche un altro problema, che comunque in luglio e in agosto molte persone sono in vacanza. Io non so se le televisioni possano essere molto contente di questo. Da un lato potrebbero avere il palinsesto pieno per 12 mesi, anche se poi bisognerebbe spiegare alle televisioni che da novembre a gennaio compreso il calcio va in vacanza, e allora su cosa potrebbero puntare. È una proposta affascinante, come quasi tutte quelle di Platini. Io trovo che e può essere un ulteriore postilla ai pensieri nostri dell'altro giorno, ci potrebbe essere un allungamento della stagione, un completamento della stagione, se ad esempio il secondo campionato si giocasse d'estate, cioè se la Serie B italiana al posto di essere praticamente la fotocopia della Serie A, ma di giocarsi in un giorno diverso, occupasse tutti i mesi che la Serie A deve lasciare vuoti, poi ci sarebbe un problema di promozioni e retrocessioni. Ma io credo che poi in futuro si arriverà sempre di più verso le Superleghe e quindi verso l'NBA, e quindi con l'abolizione delle promozioni e delle retrocessioni, o quantomeno con una riduzione fortissima, magari soltanto una promozione e una retrocessione, e a questo punto potrebbe essere anche una sottoidea, un sottoclù. Cioè, si è sempre giocato in inverno, non è impossibile giocare in inverno, anzi io trovo che ad esempio la pausa della Champions League sia troppo lunga, cioè la si potrebbe spalmare meglio, e spalmato per spalmato giocare il 20 di luglio alla sera sì, può andar bene, ma credo che a calcio si giochi sempre meglio col fresco che col caldo. Sì, il meglio freddo del caldo sì, se parliamo dei campi che vediamo in giro per l'Europa, certo, perché i campi non sono un parametro. Se vediamo i campacci di casa nostra, io penso invece che il fatto di giocarci sul caldo, ovviamente in notturna, perché non si può pensare di giocare di pomeriggio in giugno e in agosto, magari fermando il campionato invece che la sosta invernale, fare la sosta estiva le due ultime di luglio, che in genere sono le più calde, vabbè, insomma, comunque in ogni caso sarà un argomento di discussione interessante. Fabio, io chiuderei uscendo un pochino da questi argomenti e tornando su una magnifica gag che ho visto su Sky Sport 24. Mi pare risalga domenica, ed era il dopo partita, no? di Cremona Milano a cura di Dan Peterson. Guarda, un momento fantastico, perché io vedo fuori onda Peterson con la nostra inviata Chiara Baroni, che è pronta a ricevere la linea e intervistarlo, e però dalla regia non mi danno ancora il buono, e io non capisco perché, ma me ne accorgo vedendo, perché Peterson si allontana dalla collega, e per motivi che in studio non potevamo intuire. Arriva il collegamento, mi dicono buono, vai pure, allora andiamo a Cremona, la linea all'inviata, piccola introduzione, Peterson non risponde alla sua domanda, ma indica con un dito di fronte a sé, ma noi non potevamo vederlo perché era vicino al cameraman, e dice: se non chiudono quella porta io non rispondo a questa intervista e non faccio l'intervista con Sky. Allora la nostra inviata ci dice: guardate, dietro la telecamera c'è una porta che gli inservienti hanno aperto perché stanno togliendo dei cavi piuttosto che delle altre cose, il palazzetto dello sport di Cremona ha questa porta scorrevole, e ok. Peterson dice: io non posso prendere influenza perché ho appena finito, sono accaldato. e già lì secondo me era molto divertente. Ma il massimo lo raggiunge 20 secondi dopo, perché l'inserviente, spaventato anche dall'autorevolezza del tono, certo, di Peterson, che vi assicuro non era per niente conciliante, chiude la porta. Ma evidentemente un altro incauto inserviente, mentre Peterson stava per rispondere alla finalmente prima domanda dell'inviata, riapre la porta e Peterson si interrompe e se ne va senza salutare, e se ne va via e molla lì la nostra giornalista. L'intervista poi ovviamente Peterson l'ha fatta, Peterson è un amico di Sky, un amico di Radio 24 ed è una persona a modo, l'ha fatta con il cappotto, grande, dopo negli spogliatoi, spiegando a tutti che lui non aveva assolutamente intenzione di prendersi un accidente. Ora, Fred, perché... ha 75 anni, che compiva esattamente quel giorno. Compiva quel giorno lì, per cui ha compiuto 75 anni, ha vinto la partita, deve prendersi anche il raffreddore, no, quindi grande coach per noi, numero uno. Grazie Fabio. A te Gigi, a presto. Al prossimo appuntamento. Dunque, qualche altra curiosità sul pallone d'oro, ma assortite. La prima è che alcuni CT e capitani non hanno votato. Per esempio, non ha votato Giovanni Trapattoni, né ha votato il capitano irlandese, non ha votato l'Argentina, non ha votato il Cile, non ha votato il Paraguay, non chiedetemi perché, forse perché non considero granché serio questo premio, oppure perché sono in disaccordo su qualcosa, non ne ho una grande idea. C'è già un ascoltatore in linea, ovviamente siete previsti in massa nella seconda parte del programma, ma prima volevo leggervi questo messaggio di Pietro Cotroneo da Abbiate Grasso, che usa le maiuscole e scrive: essere giornalisti seri e professionali non è solo dare le notizie in modo reale e imparziale, ma anche ricredersi su qualche giudizio dato in modo affrettato, scaturito dalla questione di pelle. Quindi si ricreda e chieda scusa all'umanità e ai sentimenti di Mourinho. Non è solo un grande allenatore, è soprattutto un vero uomo. Pietro Cotroneo. Pietro, lei l'ha scritto benissimo questo messaggio. Per me è umoristico, al di là delle sue intenzioni. Mourinho è stato giustamente premiato, l'ho detto prima, come miglior allenatore del mondo mondo nella stagione 2010. Mourinho è il cialtrone, come l'ho ribattezzato io, anzi il cialtruan, che domenica, completata la rimonta sul Villarreal in casa sua con il Real Madrid, al culmine tra l'altro in una partita stupenda, giocata stupendamente sia dal Villarreal nel primo tempo che dal Real nel secondo, è andato a esultare, davvero cialtruan, davanti alla panchina del Villarreal, rischiando di creare un tumulto mai visto. Del Bosque, il giorno dopo aver vinto la Coppa del Mondo, ha chiesto per piacere al re Juan Carlos di ammettere suo figlio Down al ricevimento d'onore ai giocatori e a lui, che veniva effettuato alla casa, non mi ricordo come si chiama, di Madrid. Scelga lei, insomma, si tenga il suo Mourinho, per capirci. Alessandro, dalla provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno, volevo fare questa considerazione. Secondo me, trovo l'assegnazione del pallone d'oro a Messi di quest'anno come molto, diciamo, più azzeccata rispetto alle decisioni che sono sostenute negli anni precedenti, perché se pensiamo che il pallone d'oro è un premio che viene dato a un singolo, ecco che secondo me quest'anno più di qualsiasi altro anno prima ha vinto proprio lo spettacolo, cioè la giocata del singolo giocatore, al di là del fatto che poi questo abbia contribuito a portare, non so, la vittoria del proprio club nei confronti di qualche trofeo, ecco. Per cui secondo me, così come anche, se vogliamo dire, l'assegnazione del pallone a Mourinho in quanto proprio come personaggio singolo, al di là anche sì dei successi ottenuti, però proprio perché ha dimostrato di essere un personaggio, così come Messi ha dimostrato di essere un singolo personaggio, ed è per questo che il pallone d'oro secondo me totalmente viene attribuito a un giocatore singolo e non a un team. Quindi trovo... Sì, è un premio individuale di uno sport di squadra, ma infatti ci stai come. E poi ripeto, 60 gol in 64 partite, non dico la metà di questi 60, ma una quindicina buoni di quelli da cineteca e da proiettare nelle scuole calcio, no, perché è inutile, nel senso che tanto non si possono imparare quei colpi, però insomma da vedere e rivedere fino a averli mandati a memoria. Torniamo in onda con i vostri interventi e qualche voce da ascoltare. Per esempio quella dell'arbitro Rizzoli. Ieri si è svolto a Roma il tradizionale raduno di fine girone d'andata, di metà stagione, tra allenatori, capitani e arbitri. Un confronto all'americana in cui ciascuno dice o dovrebbe dire tutto quello che pensa, in maniera da affrontare, risolvere tutti i problemi legati alla gestione delle partite. Allora, Rizzoli alla fine ha dato un voto alla stagione arbitrale sino a questo punto. Io una piena sufficienza gliela do, forse anche qualcosina in più. So che non sarà ben vista da altre persone, però sicuramente posso garantire che sono dei ragazzi giovani che ce la stanno mettendo a tutto e che crescono piano piano piano. È una squadra, una vera squadra fatta di 20 persone, con chi ha un po' più di esperienza e chi ne ha meno. Dateci il tempo di fare l'esperienza. Primo ascoltatore, Quittim da Milano, buongiorno. Buongiorno, signor Ganzini. Di che? La mia è una provocazione più che una, diciamo, una domanda. Per quanto riguarda il pallone d'oro assegnato a Messi, praticamente non è che questo assegnamento del pallone d'oro così all'improvviso, perché pensavo che doveva essere Schiavi oppure Iniesta, anche come allenatore doveva essere Del Bosque, questo cambiamento di rotta non è che è anche assegnato dal 2 mesi fa uscita di un tipo di personaggio che diceva che praticamente sono un po' emozionato che praticamente se poteva parlare gli tirerebbero anche altri 2 trofei, cioè europeo e il mondiale ai spagnoli. Grazie, l'ascolto per radio. No, mi sentirei davvero di escludere questo, perché nel frattempo quella bufala è stata ampiamente ridimensionata, torno a dirlo per la 20ª volta, per carità, tutto può sempre accadere purché arrivi da fonti attendibili. Quello era un avanzo di galera, no, non un avanzo, un galeotto vero che stava in galera e che aveva sostenuto di aver sentito una confidenza da parte del mitico dottor Fuentes, che è alla radice di molti guai di doping spagnolo, ma mai collegabili, mai finora collegati col calcio, se non nelle chiacchiere, nelle calunnie di qualcuno che naturalmente come sempre, no? Quando si vede che l'erba del vicino è più verde e che si pensa che il giardiniere abbia usato gli additivi, e invece al momento questo non solo non è provato, ma non è nemmeno oggetto di indagine. Quindi queste io queste porcherie veramente le lascerei ai delatori di professione e a quelli e a quel genere di persone che riesce soltanto a vedere le cose non in controluce, che è assolutamente un diritto e in qualche caso un dovere, ma semplicemente a rimestando nel torbido in maniera gratuita. Mauro Modena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Senta, io volevo sul pallone d'oro dire, a parte il fatto che secondo me Messi si sta prendendo quello che a suo tempo non prese Maradona, perché all'epoca i sudamericani non venivano premiati. Sì. Però qualcuno mi dovrebbe spiegare il metro di giudizio, perché se fino adesso io ascoltando anche le vostre trasmissioni, anche i suoi discorsi con il buon Fabio Tavelli, si parlava del Mondiale, si parlava della Champions, e se dobbiamo guardare i parametri, al di là dei gol stupendi che Messi ha segnato in questi anni, però non si capisce, visto che al Mondiale comunque si può tranquillamente dire che ha fallito e non è stato premiato, non dico, ma al di là di Iniesta, secondo me Xavi, che è un fenomeno veramente come ce ne sono pochi. E in ultima cosa volevo aggiungere che anche il premio dato a Mourinho, pur meritato giustamente perché è il tecnico che ha vinto di più, ma è paradossalmente una beffa nei confronti dei giocatori interisti come Snyder fuori dal podio e Milito fuori dalla lista dei 23. Vorrei sentire la sua impressione e la saluto. Sì, sono tutte cose che ho già detto a ripetizione, sin da quando venne fuori la lista dei 20 in cui non c'era Milito, poi il podio in cui non c'era Snyder. Insomma, è stata un'edizione, ha detto molto bene Tavelli, mi ha molto colpito quella sua espressione, questo è l'anno zero del pallone d'oro, per cui tutti i parametri che noi abbiamo applicato sino ad oggi non valgono più, evidentemente, no? Perché sono cambiati i votanti e sono cambiati i parametri. Vince il miglior calciatore del mondo nella stagione, ma si ripristina il concetto, cioè nessuno l'ha spiegato ufficialmente, però insomma, evidentemente è stato raccomandato ai votanti, okay, di puntare su quello che ciascuno dei votanti, capitani, allenatori e giornalisti, ritengono il miglior giocatore del mondo in assoluto, indipendentemente dai trofei, dalle vittorie dell'anno. Può essere un criterio, magari anche un criterio migliore, anzi io non lo escluderei affatto. Con i criteri precedenti, le ripeto, poteva vincere secondo me o Xavi o Snyder. Certo, Iniesta sarebbe stato un eccellente candidato, io ho un debole per il professor Xavi, che secondo me ha giocato una stupenda stagione e un mondiale, non uno stupendo mondiale, ma un eccellente mondiale. Ha ricominciato a settembre come niente fosse, con la sua bacchetta magica in mezzo al campo a dirigere l'orchestra. Avrei votato lui, anche per cambiare un po' rispetto al Messi dello scorso anno, ma se vince uno che segna 60 gol su 64 partite, Non è che ha vinto un outsider, ha vinto Leo Messi, ha vinto il numero uno al mondo. Roberto, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Io volevo fare una considerazione sull'idea che dicevate prima sul discorso della riforma dei calendari. Sì. Allora, a parte, premetto, a me non dispiacerebbe, essendo frequentatore di stadio, andare, diciamo, quando la temperatura è leggermente più mite e evitare quindi i mesi di dicembre, gennaio, dove tante volte è veramente un'impresa raggiungere allo stadio. No, sono d'accordo con lei, la interrompo solo un istante per dirle che però si passerebbe dal freddo alle fornaci, perché poi... Sì, però basterebbe magari cambiare gli orari delle partite. Beh, questo sicuro. Serale. Vabbè, questo comunque, la mia considerazione era questa, perché mi sa che l'idea di Platini diventerebbe un po' utopistica, perché le faccio un ragionamento. Allora, i campionati, quasi tutti, penso a livello europeo, finiscono intorno alla fine di maggio, dal 20 in poi, sì. Comunque intorno alla metà, alla fine di maggio. Se il campionato dopo inizia a febbraio, siamo davanti a un buco di 9 mesi. E che si fa in quei 9 mesi? Sì, in domanda, perché domanda. 9 mesi senza calcio, soprattutto diciamo per la tipologia del tifoso italiano e tutto, sarebbero 9 mesi di isteria collettiva, penso, tra bufale di giornali di calciomercato e tutto quello che ci sia. Ecco, mi sembra un po' di difficile applicazione per un discorso di tempo, perché se i campionati, appunto, come dicevo, finiscono in primavera inoltrata, cominciare a febbraio, nove mesi. No, evidentemente ci sarebbe una uniforme, insomma, un arrivo progressivo, no, a questa nuova formula, e evidentemente chi propone una riforma del genere non può non averla studiata. Io ho letto soltanto un'anticipazione stamane e credo che in giornata ne sapremo di più, perché penso che faccia parte del questo argomento anche della conferenza stampa di oggi, a meno che invece oggi in sede UEFA Nyon si parli soltanto di fair play finanziario disatteso, tra l'altro, e da qui l'interesse dell'appuntamento, e non ancora di questa rivoluzione. Roberto, grazie. Noi tra poco ci collegheremo con il professor Nicola Guarino, anzi è già in linea, eccolo qua, l'aiuto regista Rai Nicola Guarino. Buongiorno Nicola. Buongiorno Garanzini, buongiorno professore, troppo buono. Professore, sì, dunque Nicola Guarino, che è un ascoltatore fedelissimo, che già in altre occasioni è intervenuto, mi ha mandato stamane la seguente mail a proposito del gol di Cavani. Miracoli della Moviola hanno permesso a un grande colpo di nuca di diventare un colpo di tacco. La costruzione dell'illusione ottica di prospettive e rallentatori hanno trasformato la realtà in un videogioco, tutto questo evitando la testimonianza umana, perché sarebbe bastato chiedere a Cavani. In verità, la realtà nessuno la vuole conoscere. La Moviola è un grande inganno e questo caso lo dimostra una volta di più. Il colpo di nuca, e lo posso provare. Nicola, lo provi, ne ha facoltà. Lo provi. Allora, no, tutto questo nasce in diretta, per me era chiaramente un colpo di testa, forse di spalla. Sì. Poi ieri ho notato su un sito che si occupa di Napoli e del Napoli Calcio questa ricostruzione a rallentatore, ed effettivamente per una sorta di illusione ottica sembrava che Cavani non l'avesse presa con la testa ma con il tacco, avendo già fatto un gol a Palermo così, sì, ed avendo veramente effettivamente poi domenica avendo fatto un movimento per cercare di prendere il pallone anche col tacco, cioè lui si è buttato cercando di prendere il pallone, di beccarla, sì, e non sapeva bene come prenderla, l'ha presa di testa, però si era buttato anche col tacco, insomma ci ha fatto effettivamente un movimento con la gamba. La verità è che dalla ripresa televisiva lui è impallato. Da un'altra ripresa, da dietro la porta, non si capisce perché è un po' impallato, un po' schiacciato. La leggenda del colpo di tacco nasce da un'ulteriore ripresa fatta a sinistra del campo, in cui per via della prospettiva della telecamera Cavani è praticamente schiacciato quasi a terra, e facendo questo movimento di testa e contemporaneamente di gamba sembra che la prenda col tacco. La realtà è che se uno vede il fotogramma preciso del colpo, la palla sparisce in parte dietro la testa, sì, quindi in realtà è stata presa di testa. Tutto questo è visibile su YouTube, su Repubblica. Quello che mi ha inquietato sono due cose: uno, che sia nato proprio un dibattito su questa cosa, addirittura chiedendo con un sondaggio secondo voi, sì, non esiste un secondo voi, esiste un'oggettività. Al massimo si chiede a Cavani, si dice scusa come l'hai presa, saprà come l'ha presa. questa cosa è da 2 giorni si sta parlando di una soggettività, di un'interpretazione di un filmato, addirittura di una parte di un filmato. Mi fa pensare che la Moviola, anche purtroppo quando viene usata per a fin di bene, purtroppo in realtà, anzi sicuramente, altera la realtà. Noi dobbiamo ricordarci che noi vediamo 25 fotografie al secondo, in realtà, che ci danno la sensazione del movimento. La palla è velocissima e in un 25esimo di secondo può fare anche diversi centimetri. Certo. Questo unito alle posizioni delle telecamere possono creare effettivamente un'altra realtà, per cui quando si dice no, la presa di mano, no, la presa di gamba, c'è stato un contatto. La verità è una: sul campo la velocità reale era chiara, l'avesse presa tutto sommato tra la nuca e la spalla, insomma, come ti hanno detto anche poi Storari. Molto bene. Molto bene. Grazie professore. Comunque, non un gol irregolare, di tutto si è parlato fuorché di questo. Una prudenza che forse lo stesso Camani nemmeno sa come ha effettuato davvero, anche se poi la prudenza vera di Camani è di andarci a quella maniera, con quel fegato tra l'altro, perché gli sta arrivando in faccia la scarpa di Grigera a chiudere. Quindi di andarci e di metterla dentro in un modo regolare, poi quasi certamente, anzi certamente di nuca. L'intervallo per il traffico. Ultima parte dell'appuntamento di oggi con ulteriori vostri interventi e con contributi vocali, cominciando dalla consueta rubrica, dall'appuntamento con Nicola Filippone e le sue date della storia dello sport, in questo caso l'11 gennaio. Sembra ieri. 11 gennaio 1942. La Roma batte per 2-1 la Lazio, aggiudicandosi il derby numero 30. I giallorossi passano con Amadei, subiscono il pari di Piola e risolvono poi la gara nel recupero grazie a un'autorete del terzino uruguaiano Maximiliano Faotto. Faotto diventa così il primo a realizzare un'autorete nella storia della stracittadina romana. Complessivamente in Roma-Lazio ci sono stati 13 autogol, di cui 8 in favore della Roma. Il giallorosso Santarini è stato l'unico a segnare nella propria porta in più di una circostanza, una volta nel 71 e una nel 73. L'ultimo autogol in un derby ha avuto come protagonista il laziale Paolo Negro il 17 dicembre del 2000, una sfortunata carambola che permise alla Roma di Capello di vincere per 1-0. Peccato non poter disporre delle registrazioni di queste dichiarazioni di Marotta da una parte e Sissoko dall'altra, che danno la misura, secondo me, di come queste due sconfitte consecutive abbiano fatto male all'ambiente della Juventus. Io sinceramente non ricordo di aver sentito un direttore sportivo, che poi è molto di più perché è l'amministratore delegato della Juventus, Marotta, che dice: Sissoko, testuale, non si capisce mai che cosa abbia, un vero rebus, e lo dico polemicamente, se vuole essere ceduto faremo in modo di accontentarlo, ma soltanto alle nostre condizioni. E un giocatore, cioè Sissoko, che risponde: vogliono cedermi senza chiamarmi in causa, proponendo destinazioni sgradite, ma io non sono merce. Del Neri, se non gli servo nemmeno mi saluta, e così non mi prende in considerazione. Ripeto, sono bastate due sconfitte per fare molto male all'ambiente della Juventus e per proporre battibecchi pubblici di questo genere, di cui sinceramente in ambiente Juve non ho memoria, senza non dico risalire ai tempi di Boniperti, in cui una cosa del genere sarebbe stata fantascienza pura, ma insomma anche in tempi recenti di sbracate del genere proprio non avevo grande memoria. Luciano, provincia di Como, buongiorno. Ah, buongiorno caro Garanzini. Dica. Mi scusi, io non conosco il retroscena di come si sia modificata la votazione, che prima era France Football e quindi presumibilmente era nato per valutare i giocatori in campo europeo. Adesso si è allargata al mondo e Blatter, con la solita sua influenza, e non so se abbia scippato questa prerogativa che era europea, anche perché poi so che non corre buon sangue fra Platini e Blatter, ma con quale diritto ha potuto subentrare e modificare sostanzialmente queste valutazioni e queste votazioni che erano di stampo europeo, insomma. Ma no, Luciano, per la verità non è che hanno modificato, hanno unificato, mettiamola così, nel senso che prima c'era da una parte il pallone d'oro, che era storicamente risale mi pare a 61, comunque a 50 anni di storia di pallone d'oro, inaugurato, insomma voluto da France Football, e questa era una cosa. Da qualche anno, da parecchi anni, c'era, pochi giorni più tardi, il FIFA World Player, e cioè il pallone d'oro votato non più da una maggioria di giornalisti come quello di France Football, bensì votato da commissari tecnici e capitani di tutte le nazionali del mondo. Blatter ha pensato di fare di unificare queste due cose, e in sé non mi sembra una cattiva pensata, anche perché detto tra noi, di premi non se ne può più, no? non c'è altro per l'intera durata dell'anno che premi, e diceva uno dei miei insegnamenti di riferimento di gioventù era Leo Longanesi, che scriveva: le onorificenze non basta non ritirarle, bisogna soprattutto non meritarle, no? Longanesi era un polemista, un umorista insomma, di raffinatezza e di durezza rara. Insomma, visto che appunto i premi sono tanti, Blatter ha pensato di unificarli. Poi è ovvio che facendone uno ci ha messo su il cappello più o meno come interessava, come piaceva a lui, insomma. Danilo, Genova, buongiorno. Garanzini, buongiorno. Sentami, scusi, io ho visto domenica Sampdoria-Roma, ho visto tutta la partita e sono rimasto a dir poco scioccato per quello che ho visto nei minuti finali. Volevo sapere un suo parere. Cioè, io parto da questo principio. Ranieri dice che è romano, è nato a Roma, è tifoso della Roma, si definisce romanista e tiene il capitano, il simbolo della Roma, il giocatore che può fare la differenza anche da fermo, lo tiene in panchina fino al 90esimo e lo fa entrare nei minuti di recupero. E, cioè, voglio dire, è un allenatore che vuol bene alla sua squadra, perché se lui si definisce tifoso della Roma, cioè uno che vuole bene anche, è anche tifoso della squadra che allena, non tiene Totti in panchina fino al 90esimo. Ecco, volevo sapere una sua considerazione, ecco, grazie. Ma guardi, con Totti io ho sempre adorato Totti e non adorato Totti come calciatore, intendo, non certamente per certe sue cadute di stile e di gusto che purtroppo ha avuto nel corso della carriera. Come calciatore sì. Da grande ammiratore di Totti, io le dico che fino alla prima idiozia di Juan domenica, la Roma senza Totti ha giocato la sua miglior partita di stagione, ma direi di gran lunga, e l'ho già anche detto ieri. Lì mi pare che Ranieri abbia commesso un primo grave errore sostituendo Mexès anziché uno delle due punte, e questi sono gli errori secondo me tattici che gravi che Ranieri ha commesso. Dopodiché penso anch'io che un giocatore con il cursus honorum di Totti non vada trattato come un ragazzo spazzola. Questo vale per Totti a Roma, vale per Del Piero a Torino, valeva per Maldini a Milano, se mai si fosse posto questo caso, valeva per Ronaldinho con Allegri non più tardi di 3 o 4 settimane fa, vale per chiunque abbia illustrato i colori sociali più di quanto non li abbia illustrati il signor Ranieri o il signor Allegri o il signor Ranieri ancora a Torino o il signor Capello o chiunque. Io credo che meritino un rispetto questi giocatori, che in questo caso è mancato in maniera secondo me grave. Non solo, avendo poi Ranieri spiegato alla fine di non essersi reso conto che mancava soltanto un minuto, ma pensava ne mancassero 3 o 4, ha aggravato secondo me la sua posizione per due ragioni: perché 3 o 4 minuti anziché uno non facevano differenza, era sempre una mossa tardiva. Secondo, è vero che a un allenatore non è richiesta la bacchetta magica, ma di saper leggere l'orologio, di saper capire in che ora sta vivendo, secondo me sì, a grandi linee. Luca Cesena, buongiorno. Buongiorno, Garanzini. Due cose velocissime. La prima è un plauso da parte mia alla classe arbitrale, perché il fatto che fischino meno, molto meno, è lampante per chi segue il calcio. E non ci voleva moltissimo coraggio, secondo me, perché i giocatori fanno presto a imparare. Alla seconda volta che non ti fischia il fallo, si vede che sta in piedi e se ne ricorda. Sì. L'altra cosa, invece, a proposito di Superleghe, visto che prima in qualche maniera Tavelli ne ha parlato. Ecco, quando succederà che non esisteranno più promozioni o una cosa del genere, mi darò all'ippica, non so, alla pesca, alla soglia, una cosa del genere, perché per io, me il calcio io la seguirò volentieri, Luca. Il calcio è la piccola, è il Cesena che dà 2 gol al Milan dopo aver giocato 2 anni in C1. Non per c'è. Me è la faccia di Galliani quest'estate dopo la partita. Non apprezzo. Il sale dello sport è il piccolo che può giocare contro il grande. È la Coppa d'Inghilterra, dove anche una squadra di dilettanti può andare a vincere a Wembley. Certo. Al contrario di quello che accade da noi, qualche anno fa sentii Ferguson dire: è stato un onore per noi aver giocato contro di voi, una squadra credo di Serie B che aveva appena eliminato il Manchester United. Cosa da noi impensabile. Da noi l'Inter quest'anno, non so, entrerà credo nei quarti, una cosa del genere. Dobbiamo imparare tantissimo ancora da loro. saluto. Io non la saluto, la abbraccio, perché ogni tanto un intervento come il suo risolleva davvero lo spirito, glielo garantisco e la ringrazio davvero di questo. Grazie a tutti gli intervenuti, grazie a Franco Piantanida in redazione, alla regia, e buon pomeriggio a tutti.